Chi è? Dei punti in comune per andare avanti nel modo. Nel modo no, ha dato la sigaretta anche mentre è in conferenza. Szczęsny ha dato una sigaretta. Era Szczęsny. Ha detto che se l'è meritata. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'antijuventinismo è una malattia che fa male però a chi è antijuventino, non a noi. Juventus, hai vinto il campionato italiano, vediamo in Champions. Lì non trovi le squadre del nostro mediocre campionato, lì la musica è diversa. Lì la musica è diversa, lì la musica è diversa, lì la musica è di... E vai, adesso due belle sconfitte, così all'Inter glielo facciamo proprio fermare nel gargarozzo questo scudetto. Un punto dovete arrivare, perché purtroppo non potete manco arrivare a pari punti. Forza Juve! Questo scudetto se l'è preso chi ha perso meno degli altri. Perde merito degli altri. Inoltre la Juventus lo avrebbe vinto, sempre per demerito degli altri, anche senza l'allenatore. La grande fantasia dei nostri ascoltatori via WhatsApp, continuate a mandarli a 349-238-6666 se volete intervenire, solito numero 800240024 e il radio tweet di Pierluigi Pardo, tanto per cominciare. Sì, dedicata a Ibra, c'è questa storia dell'elicottero, questa suggestione, io presidente, poi ovviamente sono tutte cose così, diciamo, per fare un po' da moina, che direbbero a Napoli, però insomma, credo che un radio tweet se lo meriti, Ibra, sì. perché comunque nella rinascita del calcio italiano, comunque nella crescita che secondo me c'è stata rispetto al punto più basso, con mille aspetti, la nazionale, il lavoro di Mancini, la competitività dei nostri club, secondo me c'è anche l'arrivo di grandi campioni, ovviamente Cristiano Ronaldo su tutti, però insomma questa personalità debordante che fa parte del gioco, che fa parte dello spettacolo, certo, proprio dell'entertainment, certo, direbbero gli americani. E quindi insomma lunga vita a Ibra, lunga vita ai grandi campioni, e lunga vita anche a Ibra al Milan e a Cristiano Ronaldo alla Juve e a Ribéry alla Fiorentina, che rimangano tutti. L'ho visto con la nuova maglia, sai, non è mai un indizio definitivo, insomma. Dopo ne parlerò, ma ci sono anche altre suggestioni che arrivano dalla Cina, dove c'è, sì, certo, il canale di proprietà di Suning, che insomma trasmette le partite del campionato italiano e la presentazione di Inter Napoli dedicata a Messi proiettato sul Duomo. Questo ovviamente ha fatto imbizzarrire i social, però credo che sia semplicemente un cartellone pubblicitario. Non so se Paolo Tomaselli e tuo vicino d'ombrellone in Sardegna state aspettando entrambi Cagliari-Juventus. Ciao. Dove Paolo? Sei Paolo? Dove sei? Ciao. Ciao, io sono all'isola di San Pietro in questo momento. Ah beh, qualità totale. Io sono al nord, sono venuto a trovare un mio amico che sta qui e insomma... Domani si scende con Marco Lin, domani mattina si gioca a padel. Io ho meno strada da fare domani. Comunque, è tutta meravigliosa, nord e sud. Ragazzi, anche le parti meno conosciute, anche l'Oristanese, bellissimo, Alghero, vabbè, un paradiso. Vabbè, avete tempo fino a domani sera, quando uno la racconterà e l'altro guarderà per scriverne sul Corriere della Sera. Corriere della Sera oggi, Paolo Tomaselli che propone una lunga intervista a Michel Platini, in cui si ritorna sul tema l'ossessione dalle grandi orecchie che c'era già ai tempi suoi. Tra l'altro oggi esce un tuo libro in cui dedichi 30 ritratti alle leggende della Juventus, 30 ritratti appunto alle leggende della Juve. Non può mancare Roi Michel. Sì, certo, ti confesso che sceglierne 30 è stato dura, nel senso perché ci sono state delle esclusioni per forza eccellenti, perché davvero i campioni che hanno fatto grande la Juve e viceversa sono stati tantissimi, anche perché l'arco temporale, insomma, parte dagli anni 30, inizio con Combi e finisco con Ronaldo, per cui qualche scelta dolorosa, ma abbastanza divertente andare a scavare e scovare anche qualcosa, non dico di inedito, ma insomma di dimenticato di questi campioni. Io credo che comunque la partita di Cagliari la guarderete entrambi, così sbirciando i progressi o i problemi della Juventus in prospettiva Lione, tanto per cominciare, o mi sbaglio, Pier? Guarda, io credo che sia interessantissima, e non è marketing, è proprio veramente il mio stato d'animo, che vabbè, per me basta che mi metti una telecronaca pure di serie B, di metà classifica e godo, però domani, io voglio capire una cosa da domani, poi la si vedrà nell'ultima giornata contro la Roma, quanto l'effetto psicologico dello scudetto possa aver influito, perché onestamente se dovessimo valutare appunto con degli exit poll lo stato della Juve nell'ultimo mese, negli ultimi 20 giorni, io non è che non cambio idea perché c'è stata la festa scudetto. Mm-hmm. Un conto è riconoscere alla Juve il merito di averlo vinto, a Sarri comunque il fatto di averlo portato a casa, e riconoscere i 9 anni di dominio clamorosi e con tutti i complimenti possibili. Un conto è giudicare la cronaca degli ultimi 20 giorni è stata una cronaca che i tifosi della Juve stessi sanno benissimo è lontanissima parente di quello che la Juve ha fatto in questi anni. Quindi io sono però curioso, visto che nel calcio, come in tanti altri sport, la testa ha un ruolo fondamentale, di vedere se questa gioia finalmente, questa liberazione finalmente, questo primo trofeo di Sarri, questo stare insieme a festeggiare, ragazzi, sembra una banalità, ma portatelo nelle vostre vite, nella dinamica di un posto di lavoro, di una famiglia. Quando poi c'è veramente una grande festa, una grande gioia tutti insieme, si brinda insieme, si sta insieme, e non è un dettaglio, non voglio fare... Hai il portiere che ti passa la sigaretta. Cioè, voglio dire, questa cosa qui non, veramente non è un dettaglio, soprattutto no. in uno sport credo. Ad altissima prestazione, certo. Sono curioso. No, ti va via la scimmia dalla spalla, questo è chiaro, può valere soprattutto per Sarri, immagino magari meno per Bonucci o per Chiellini, per quelli che ne hanno vinti 50 di sti scudetti. Paolo, sei curioso anche tu da questo punto di vista? Ma perché intendi per domani? Io mi aspetto una Juve, spero anche di una Juve per certi versi abbia staccato un po' la spina, che si riposi un po', perché continuo a vedere le squadre spagnole che mandano messaggi dalla spiaggia, i tedeschi si sono riposati, i francesi hanno avuto una sosta lunghissima, e ho paura un po' in chiave Champions per la Juve che possa esserci uno stress psicofisico, perché insomma abbiamo visto appunto come è finito il campionato, con stanchezza, una stanchezza anche di testa. Gli ultimi 20 minuti con la Sampdoria sono stati difficili secondo me per la Juve, anche da gestire di gambe e di testa, e quindi mi aspetto che tra domani la partita con la Roma insomma si veda un po' questo stacco e che non influisca sul giudizio di questo scudetto, ma si ragioni in chiave della partita del 7 agosto, che è di capitale importanza contro un avversario che il 31 gioca in Coppa col PSG, quindi avrà una partita di warm up che per la Juve forse è meglio che il Lione, come si dice, dia anche dal punto di vista atletico già una sgasata, perché potrebbe magari risentirne qualche giorno dopo. Anche se io resto convinto del fatto che 5 mesi di stop agonistico non possano non pesare. Sono veramente forse troppa roba, e sono anche convinto del fatto che, a parte la stanchezza fisica certamente che c'è, ma arrivarci giocando, quindi con questo rodaggio, sia favorevole per la Juventus. Piuttosto, a proposito di leggenda della Juventus, io ho la sensazione che questo gruppo di lavoro societario, capitanato da Andrea Agnelli, abbia una certa idea sul prossimo campionato, e credo che non sarà banale, perché quello della decima stella personale, insomma, è qualcosa che ti costringerebbe ad aggiornare il libro, penso, e comunque che ci racconteremo anche tra un millennio, no? Paolo? Sì, io credo che già questi 9 noi non li riusciamo a vedere in prospettiva, e non li stiamo vedendo in prospettiva, ma se pensiamo, anche se andiamo a rileggere qualche dichiarazione o qualcosa di quando si parlava del terzo scudetto, del quarto scudetto, se pensiamo che era dagli anni 30 e poi 40 col grande Toro che non ci sono stati 5 scudetti consecutivi, e adesso la Juve lotterà per il decimo, ecco, come dici tu, forse fra qualche anno daremo la giusta prospettiva a questa epopea juventina. Ho letto in questi giorni commenti sul fatto che non faccia bene al calcio italiano. Posso essere anche d'accordo, ma non vedo una, come si dice, una colpa da parte della Juve. Se no, non, sono le altre che si devono svegliare. Se non delle altre che si sono adagiate forse anche in questo contesto. In questi 10 anni c'è stata appunto la carica di un presidente giovane come, come Andrea Agnelli, giovane ma antico nel senso della dinastia, e c'è stato uno stravolgimento a livello di Milano, ragazzi, che non si è ancora compiuto. È una congiuntura. La Juve, la Juve ha fatto anche qualcosa di storico, cioè adesso veramente è sempre un fatto di prospettive, di quello che si valuta e che si giudica. Allora, c'è la cronaca e c'è la storia. La cronaca ci dice, e noi spesso in queste settimane ho detto che la Juve non mi piaceva, che dovevo fare delle cose non da Juve, perché ho visto Sassuolo Juve, perché ho visto Milan Juve. Poi c'è la storia, questa è una società che ha fatto qualcosa di incredibile, qualcosa che rimarrà per sempre, 9 o 10 o 11 o 12, non lo so, chiaro che 10 è una cifra tonda, muove gli appetiti, ma anche se fossero 9, cioè quello che sta succedendo è qualcosa di incredibile, e il merito è della Juve, e non è colpa della Juve se le altre non si sono svegliate nel frattempo. Ma sicuramente è questione di svegliarsi, sì, però è anche questione del fatto che l'Inter e il Milan hanno cambiato proprietà, insomma, questa dinastia si è anche inserita in un sistema per cui le altre, Moratti non c'è più, Berlusconi non c'è più, e Agnelli invece ci sono sempre, e la Juventus insomma si è anche inserita in questo, questa sorta di vuoto di potere. Ciao Beccarossi, aspetta, fammi salutare Evaristo. Ciao Evaristo. Chi è? Chi? Ciao. Ciao, come stai? Dai, abbastanza bene. Tutto a posto? Metabolizziamo questo nono scudetto della Juve? No, è andata via la comunicazione, non l'ho sentito. ma no, ancora più bello, dai. È piccolo da tanti anni, quindi quest'anno secondo me la cosa positiva è che c'è stato un momento che si poteva lottare con loro. Però rispetto agli altri anni, insomma, quelle dietro sono migliorate molto e si spera che l'anno prossimo si vada a interrompere questa serie di scudetti, che secondo me non è facile vincere per 9, 10 anni, 8 il campionato, quindi bisogna dar merito di questa vittoria. Però a me hanno insegnato, che ho avuto la fortuna di fare il calciatore, che quando trovi quelli bravi bisogna fargli tutto per andarli a prendere e battere. Le chiacchiere stanno a zero. Sì, comunque sarete d'accordo. Riparto da Paolo Tomaselli, che la Juventus ha vinto prima del lockdown, no? Poi si è limitata a non perdere, le altre non sono riuscite a fare qualcosa in più. Siamo tutti d'accordo su questa lettura, no Paolo? No. Ma sinceramente eravamo rimasti con la Juve a un punto sulla Lazio. Io credo che anche la gestione dopo sia stata banalmente i punti li ha guadagnati dopo, soprattutto sulla Lazio. È chiaro che è stato il crollo della Lazio quello a fare la differenza. Poi la Juve, ci ricordiamo, nel momento in cui va in difficoltà le ultime 4 partite, c'è un primo tempo di una partita in cui si trova più 10 sulla Lazio, quella di San Siro, poi perde e quindi torna tutto in ballo. Però è stato quello, io credo che sia la differenza, sia nata il solco si sia scavato anche dopo, insomma. Sì, Pierluigi? Sì, no, ma assolutamente, perché poi alla fine, allora, io credo, sai come la penso, lo dico sempre, non è che cambio idea oggi, quindi per me prima del lockdown la Lazio era nettamente la favorita, perché stava correndo con un passo e con una regolarità e con una qualità anche del gioco che era superiore a tutte le altre, e aveva un vantaggio enorme, che era quello di poter giocare una partita a settimana, a differenza della Juve, a differenza dell'Inter e di tutte le altre. Quindi questo secondo me è il punto di partenza. Poi c'è stato quello che sappiamo, la Juve, e questo se vuoi è un attenuante alle critiche che abbiamo fatto alla Juve, no? Questo faccio autocritica io, nel senso che io ho visto la Juve sbarellare con Sassuolo, a Udine, contro il Milan in una maniera incredibile, poi vedo il passo delle altre, Atalanta esclusa, sì, appunto, quello. Le altre, no, quindi secondo me non è vero che l'ha vinto prima del lockdown. Per me l'ha vinto dopo il lockdown, perché diciamo ha sofferto meno delle altre, ha sofferto soprattutto meno della Lazio, che paga alla fine 10 giorni folli, 3 partite, perché poi io l'ho vista praticamente tutte, da Udinese Lazio in poi la Lazio è tornata a essere una squadra, cioè la Lazio lo butta via fra Milan, Lecce e Sassuolo, in quella settimana la Lazio butta via lo scudetto. Hai visto l'altro giorno Verona, no? Al di là del fatto che poi il 5-1 è bugiardo perché è troppo, però insomma quello è un campo dove la Juve ha perso, il quale la Juve ha perso, no, l'Inter pagato, ha pareggiato, ha pagato quel blackout lì, ha pagato quel blackout lì, no, certo. Quindi, ma la stessa Juve-Lazio, considerate tutte le assenze, considerate l'assenza di Luis Alberto, quello di Gioni, di tutte le altre, insomma alla fine è stata una partita abbastanza equilibrata, sì, la partita certo. Che a un certo punto poteva anche girare, no? Che ti può anche accrescere certi rimpianti, secondo esatto, me, nel complesso. Detto questo, poi ci sono i rimpianti dell'Inter, tutti i ragionamenti. E sui rimpianti dell'Inter volevo sentire Evaristo, perché se l'Inter deve avere dei rimpianti in questo pezzo di stagione è strano. Ma è strano perché fino a un certo punto, secondo me, l'Inter è andata bene, si vedeva l'impronta dell'allenatore, una certa mentalità. Poi dopo la sosta lì per emergenza, qualche problema, però non devi... Cioè io credo che quest'anno l'obiettivo era di arrivare in Champions League e avvicinarsi alla Juve. C'è arrivato lo scontro diretto che era, e lì la Juve aveva vinto, e ti ha fatto capire che c'era ancora qualcosa in più da parte della Juve. Però quello che a me personalmente ha dato fastidio è che quando l'Inter ha perso delle partite che è chiaro potevano finire diversamente, perché partiamo dall'episodio del rigore 93esimo hai preso gol, però tutte le squadre alla fine qualcosa da recriminare hanno da recriminare, però non bisogna perdere, cioè io credo che questa squadra l'obiettivo Champions League è accorciare i valori verso la Juve. L'anno prossimo sarà l'anno decisivo, perché secondo me facendo 2 o 3 inserimenti nel modo giusto, il primo anno di Conte ha capito come, in che direzione andare. Quindi calma, cioè non è che il primo anno è obbligatorio subito, una certa mentalità è stata data. Quindi io l'anno decisivo è l'anno prossimo, perché secondo me la società e l'allenatore andranno tutti per cercare di lottare alla pari con la Juve. Quindi bisogna stare calmi, addirittura quando hai perso dei punti sentivo fallimento, 8-9 giocatori via, rivoluzione, calma. Io credo che la squadra, la base ci sia, c'è da fare dei tempi e essere pronti per andare a battagliare con la Juve. Cosa serve? Cosa serve, ragazzi, Pier? Cosa serve all'Inter? Ma serve, secondo me, innanzitutto serviva il tempo, cioè io credo, poi insomma Evaristo ha giocato a grandi livelli, ce lo vorrà quello lì costa come l'amalgama, no? La famosa amalgama, sì, che esatto, non cioè io condivido il giudizio, ma poi l'ho sempre detto, insomma, io penso che la stagione di Conte sia una stagione positiva, non è la stagione migliore della sua carriera, secondo me in cuor suo lui un po' rosica, perché a un certo punto si è creata la condizione per poter fare il ribaltone, e probabilmente lui anche la squadra non sono stati abbastanza lucidi, non hanno colto delle occasioni, alla fine per la differenza l'hanno fatta 3-4 partite, quindi. Però detto questo, il percorso, cioè non è una delusione l'Inter di quest'anno per me, a parte che c'è l'Europa League, è una squadra che ha fatto tanto, ha investito tanto, ha cambiato allenatore ed è cresciuta, sì. È cresciuta più o meno come mi aspettavo che crescesse, cioè non è stata un'esplosione, ma non è stato nemmeno un fallimento, assolutamente. È cresciuta, per me ci sono tutte le condizioni, come dico da sempre, che diventi la prossima cosa grande del calcio italiano, perché mi sembra che abbia soldi, progetti, insomma, ci sono tutti gli ingredienti per far bene. Sì, sicuramente qualche rimpiantino ce l'ha. Certo. Cosa serve? Lo chiedo Evaristo. Serve qualche giocatore in più, forse anche un po' più di... dal mio punto di vista di elasticità da parte di Conte, dal punto di vista del modulo, di velocità, secondo me, nel variare, però insomma la strada è quella giusta e il condottiero per me non va discusso. No, non va discusso, certamente non ci sono le condizioni, ma cosa serve non ho ancora capito, Evaristo. Ma cosa serve? Se io posso esprimere la mia opinione, io dico che la squadra come atteggiamento, come primo anno anche... cambiamenti tattici, cambiamenti degli allenamenti, così. E poi cosa serve? 2 o 3 situazioni, vabbè, in mezzo al campo qualcuno serve, davanti, poi ci saranno un po' di situazioni secondo me da valutare davanti, però devi creare 15-16 giocatori che siano sulla carta tutti titolari. E secondo me, da quello che mi risulta, si stanno muovendo bene, e io mi aspetto grandi cose l'anno prossimo, che potrei dire sì, partiamo alla pari e dobbiamo cercare di andare a battere la Juve. Senta. Ma però quello che mi ripeto, io credo di essere detto da me, che sono sempre stato, però calma, cioè, si ragiona, c'è un percorso da fare. L'anno prossimo è un anno decisivo. Secondo me la squadra verrà rimpulsata alla grande, dove deve intervenire e fare un percorso importante, sempre rispettando la Juve, che ha potuto negli ultimi anni programmare tutto e aveva una rosa sulla carta che 18-19 giocatori se la potevano giocare. La sensazione è che sia ancora abbastanza grande la distanza, Paolo. Intanto la mossa dell'Inter è stata quella di definire l'accordo con Sanchez, ma anche lì per un sacco di soldi, perché Sanchez aveva ancora un contratto con lo United che chiamava 15 l'anno per 2 anni, quindi 30 totali. Adesso si saranno messi d'accordo sul prezzo, però si investe tanto su questo giocatore. Questo un po' mi sorprende, Paolo. Ma è un giocatore che si sta bene, sinceramente è stato e credo che sia ancora in potenza un ottimo giocatore, sia come qualità atletica che come varietà di colpi. Per fare una sintesi di quello che hanno detto loro Evaristo e Pierre, credo che serva innalzare la qualità media e anche allargare il gruppo di possibili titolari sia sul mercato ma anche sulla convinzione dell'allenatore, insomma l'elasticità di cui parla Pierre, insomma creare un gruppo anche più variabile, perché la Juve era partita con un gruppo più modesto, con avversari più modesti, ma per arrivare alla montagna della Juve serve forse un qualcosa in più, un salto di qualità in questo senso anche da parte di Conte. Penso che la gestione di Eriksen sia abbastanza esemplificativa in questo senso qui, perché non credo che sia un giocatore sulle cui qualità si può discutere, bisogna credo però valorizzarlo al massimo, e questo insomma tutto sommato spetta Conte. Se Eriksen è un giocatore un po' alla Beccalossi, avresti fatto fatica anche tu forse con Conte in questa Inter, Aristo? No, io ho sempre avuto la fortuna che quando indossi quella maglia lì e vai in uno stadio sei tu che devi proporti, perché lui ha grande qualità, però lo vedo timido. Non c'entra che è l'allenatore, la posizione, cioè quando vai dentro lì e giochi in una grande squadra devi dare il 20-30% in più, non viceversa. Lui, ecco, mi piacerebbe se lo incontrassi il giorno e ho detto guarda che bello giocare, non essere troppo timido, perché è un giocatore che ha dimostrato di avere qualità, però mi dà la sensazione che sia ogni pallone debba dimostrare. Non è così, uno bravo va in campo e determina, quindi lui secondo me ha pagato un po' troppa timidezza. È vero, Pier, per te? Responsabilità Beccalossi, perché in qualche modo l'ha fatto capire anche Conte, perché ci sono delle evidenze di questo, no? Rispetto al giocatore che conoscevamo all'Ajax, al Tottenham. Io credo che ci sia anche una, ma io non credo che il contesto tattico lo abbia aiutato molto, lo dico sinceramente, insomma, quindi non sono innocentista al 100%, penso che appunto un grande giocatore, come dice Evaristo, deve entrare in campo sicuro di sé, sapendo che tanto prima o poi il pallone giusto, la giocata giusta nella partita arriverà. Lui questa pressione addosso invece se l'è sentita forse troppo, e quindi sicuramente lui ha una parte di responsabilità. Dirti che il contesto l'abbia aiutato, però secondo me sarebbe sbagliato, cioè secondo me non c'è stata una grande velocità di cambiamento, non è stato sfruttato. Guarda, è forse l'unica cosa che rimprovero a Conte, che secondo me poi molti dei suoi pregi invece già li ha fatti vedere in questa stagione. Io ero basito quando sentivo qualche commento, per esempio dopo l'eliminazione della Coppa Italia, cioè il progresso l'Inter di quest'anno l'ha fatto evidente rispetto al passato, e negarlo secondo me rappresenta quasi la malafede, perché un anno fa l'Inter andava in Champions League col quarto posto conquistato a 10 punti alla fine con la traversa, ecco. Quest'anno è la squadra che sta lì, che si dispiace di non aver preso delle occasioni, se no poteva giocarsela fino alla fine, quindi è proprio un altro sport. La velocità nell'inserimento di Eriksen secondo me ha delle concause, la poca velocità nell'inserimento di Eriksen secondo me ha delle concause, vogliamo dire 60% lui e 40% la squadra, e per la squadra intendo anche secondo me non aver creato una cornice adatta per far fruttare le caratteristiche di questo giocatore. Lasciami chiedere a Evaristo invece di un giocatore che lui conosce molto bene e che secondo me potrebbe essere perfetto per l'Inter ma anche per la Juventus. Sandrino Tonali, Evaristo. Tonali? bravo. Sempre, grazie. Io ho avuto la fortuna di vederlo con Under 19 e conoscerlo sicuramente. Cioè, gli auguro tutto il bene possibile, che è un grande giocatore, è pronto per fare il grande salto. Poi avendo la simpatia per l'Inter, è chiaro che spero che arrivi a Milano, ecco, però come giocatore non si discute e non vedo l'ora di vederlo ad alti livelli, perché veramente mi ha impressionato tantissimo. Tanto tu spiegagli la strada da Brescia a Milano, mi sembra che tu l'abbia fatto un paio di volte. Sempre uguale, sempre dritto. È molto semplice, se parti di sera, segui il sole, segui verso ovest, segui il tramonto e non ti sbagli. Esatto. No, poi un pezzo di autostrada è mia, perché sono arrivato a Milano a 22 anni, ancora qua, ne ho 74, sì. Quindi sì, sì, sono un buon azionista della strada. Però anche alla Juve io lo vedrei bene, Paolo. Sì, lo vedrei bene anch'io, però se dovendo scegliere, sentendo anche come si dice l'area che tira, è più Zaniolo di Tonali, la Juve ha bisogno di una mezzala che strappi di più, che vada meno magari con caratteristiche di regia, ma più con caratteristiche di inserimento in area e di portare una dote di gol anche stagionale, perché è un po' arido il centrocampo della Juve in questo senso. C'è una specie di Ramsey o di Rabiot, però che funzioni. Ma Rabiot in realtà tanti gol in carriera, guardando il tabellino suo, non è che ne abbia mai fatti tantissimi, anche se è un giocatore proprio che ha quella caratteristica di strappare atleticamente per magari portarsi dal vicino all'area, no? E quindi aiutarsi il gioco d'attacco. Per quanto riguarda Ramsey che abbiamo visto quest'anno non è quello che avevamo visto prima, e non so se sia un problema di continuità atletica, credo di sì, perché non c'è mai stata, sia per gli infortuni che per le cose, ma il Ramsey che eravamo abituati a vedere in televisione del Lazio non è quello che è arrivato che abbiamo visto fino adesso a Torino. Mi auguro per la Juve che si faccia in tempo a vederlo il prossimo anno. Al massimo il fratello. Grazie Paolo, buona Sardegna. Grazie Becca del collegamento. Ciao. Non mi hai salutato? Sì, ti saluto. Ciao. Ciao ragazzi. Ti voglio bene. Ciao. Giorgio da Roma, buongiorno. Giorgio? Sì. Buongiorno. Sì, eccomi, buongiorno. Buongiorno. Eccolo, buongiorno, dica. Grazie, complimenti sempre per la trasmissione, grazie della convocazione, ma solo una cosa volevo dire, io sono un milanista, ho 48 anni, ho vissuto per fortuna tutta l'epoca berlusconiana dei grandi successi in giro per l'Italia, adesso vivo a Roma, mi capita di girare Napoli, Salerno, ovunque, e sento sempre parlare bene del Milan. Voglio dire, cioè, piano elogiare sti 9 scudetti della Juventus, perché dovunque è andata ha lasciato comunque dei pessimi anche ricordi a Benevento, ad Avellino. L'anno adesso non mi ricordo che anno era, ma quando il Napoli ha vinto a Torino con quel gol di Koulibaly, poi sappiamo tutti cos'è successo a Milano con l'Inter, e sappiamo tutti che questi 9 anni sono partiti dal famigerato gol di Muntari non visto, quindi io andrei molto piano. E secondo me non è chiudo. Non è juventino lei, mi no, sa. No, io sono milanista, però come vedi parlo degli scudetti del battuta. Napoli o della Roma. No, certo. Ma io ho 4 figli, 2 di 10 anni e 9 anni. Secondo me tutto questo non ha fatto bene al sistema calcio, tornando a quello motivo per cui avevo chiamato. Però Giorgio, mi sembra una lettura un po' ingenerosa, forse. Sì, no, eviterei di fare le moviole di questi anni. A partire dal gol di Muntari, sì. Su Muntari non ci sono dubbi, su Inter Juve il dibattito è molto più articolato, ma l'abbiamo fatto 1000 volte. Allora, che il Milan di quegli anni fosse una squadra capace, faccio un discorso più generale, di incarnare dei valori di qualità tecnica, di bellezza, di innovazione del gioco, con Sacchi prima e poi anche con quelli che sono arrivati dopo, questo è indiscutibile. Quindi io, quando lui fa quel ragionamento sul fatto che quel Milan lì era, non voglio dire amato, ma comunque molto rispettato e apprezzato anche dagli avversari, è perché quel Milan lì ha fatto grandissima innovazione. La Juve sappiamo che è molto amata dai suoi tifosi e molto apprezzata dagli altri. Detto questo, il capolavoro della Juve di questi anni è indiscutibile dal punto di vista manageriale, dal punto di vista tecnico, e non riconoscerlo secondo me è proprio sbagliato, lo dico sinceramente. Andare a pensare che la Juve abbia fatto questi 9 scudetti perché ha avuto qualche episodio che era gol, ci mancherebbe altro, per un metro, che tutto sia frutto del gol di Montari o di qualche altra situazione, secondo me è proprio sbagliato, sì. Non è che è ingeneroso, è proprio sbagliato e secondo me diventa fuorviante anche per le inseguitrici che devono cercare invece di ispirarsi. Anche perché alla fine non è che le altre ci siano andate così vicino alla Juventus, salvo il Napoli di Sarri. 3-4 anni, sì, ci sono stati questi 9 scudetti, ce ne sono stati 2 o 3, soprattutto quello di Sarri al Napoli, molto veramente punta di corto muso, avrebbe detto Allegri, di corto muso, altri invece altri di dominio lì. Totale, ma sono successe mille cose, è cambiato il mondo, c'è stata la crisi di Milano, Napoli e Roma, perché per anni sono state le due inseguitrici, hanno fatto un lavoro straordinario, oltre quasi i propri limiti per riuscire a sfidare la Juve, cioè nessuno sta mettendo la croce addosso agli altri, le cose sono successe per tutta una serie poi, di motivi poi legittimi, ti ripeto sai che manca la Milano, la grande Milano del calcio, però il grande Milano del calcio ha cambiato 2 proprietari a testa negli ultimi anni, certo. Quindi diventava anche difficile così costruire qualcosa di stabile e di immediato. Grazie Pier, ti abbraccio, ciao. Ci fermiamo per la borsa, poi vi aspettate il bar tour. Al bar ci andiamo, tour un'altra volta. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Abbastanza scontato che oggi Leo Turrini sarebbe dato alla macchia nel bar tour dello scudetto della Juventus, ma anche il direttore artistico sapeva benissimo che per Marino Bartoletti è stata una domenica diversa, cioè quella dei suoi amici Maurizio Sarri e Valentino Rossi. Buongiorno Marino. Ciao, buongiorno. Guarda, questo direttore artistico è troppo indulgente verso coloro che fuggono. Neanche questa canzone può lenire il mio dolore, sinceramente, neanche se avessimo in trasmissione, che so, Graziano Rossi potrei diventare più allegro. Veramente? Me la paga questa Turrini, se me la paga. Graziano Rossi, buongiorno. Ecco. Graziano, aspetta, adesso lo recuperiamo, Graziano Rossi, però te l'ho chiamato proprio per lenire il tuo dolore. Quanto hai goduto per Valentino sul podio dopo... Sono stato felice, caro, lo sai bene. Oh, aperta parentesi, voi avete mai visto il cellulare di Graziano Rossi? Sarebbe un caso se in qualche modo funzionasse, anche perché se cede l'elastico che lo tiene fisso. Ho goduto, sono stato molto felice, guarda, fraternamente e paternamente felice. Io che, come sai, lo scorso anno avevo sollevato qualche perplessità su questa, non posso dire agonia naturalmente, però su questa tenacia di voler andare avanti contro tutto e contro tutti. Poi Valentino mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: io mi diverto così, che volete da me? Graziano, io ci credo in quello che faccio. Graziano? Pronto, sono qui. Funziona il cellulare? Sì. Il cellulare funziona, sì. No, perché Marino Bartoletti stava parlando male del tuo cellulare. Del mio cellulare, lui che gli dica che pensi per il suo. Il mio è contemporaneo almeno, e soprattutto non ha bisogno dell'elastico ritagliato da un tubolare di bicicletta, sta fermo lo stesso. La velocità è una cosa che non si può limitare, vuole anche gli elastici nel telefono, capito? Guarda, ti dico questo, io sono pronto a barattare quasi la gioia che ho provato a vedere Valentino sul podio l'altro giorno con la gioia immensa di averti in collegamento in questa trasmissione. Beccati questo. Mi sembra che sei troppo buono, però. Se vuoi vengo più spesso a casa tua, se può servire in qualche modo, eh? Magari, è stato comunque un'esperienza meravigliosa, guarda, meravigliosa. Senti, meno per me che sono salito in macchina con te, ma non annoiamo gli ascoltatori, va. Graziano, e adesso cosa succede? Dunque, adesso succede che questo di domenica scorsa, secondo me, è stato un punto di partenza, no? E sicuramente non di arrivo, un punto di partenza che ha visto Vinales prevalere su Valentino per pochissimo gli ultimi giri, no? Quindi secondo me adesso, prima di andare a cercare dov'è Quartararo o prima di andare a cercare dove Marquez, bisognerà darsi da fare per lasciare dietro magari Vinales la prossima volta. Sei contento, Marino? Sì, sono contento, però guarda, voglio fare l'avvocato del diavolo, con tutto il bene che voglio a Graziano e per la proprietà transitiva a Valentino. Io ti ripeto, sono stato semplicemente felice domenica, perché poi ho visto Valentino qualche giorno prima e solo guardarlo negli occhi mi ha fatto tornare il buon umore. Io ho scritto un post su di lui, naturalmente, come puoi immaginare, a fronte di tante adesioni, di tanto entusiasmo, c'è stato anche chi parla, non so se per invidia, per ignoranza, per frustrazione, anche per motivi legittimi. Qualcuno ha scritto, sì, però è stato l'ultimo delle Yamaha. Io ho risposto da par mio, però mi interesserebbe anche la risposta di Graziano. Ma guarda, è stato l'ultimo delle Yamaha, la prima gara, perché purtroppo ha avuto la non possibilità di lavorare sulla moto come voleva lui, come diceva lui. Quindi la prima gara si è trovata una moto che non rispondeva per niente alle sue esigenze, e invece la seconda gara con il suo team, che è un gruppo di ragazzi favolosi, hanno fatto un passo avanti che lo ha portato ad essere una delle quattro Yamaha vicinissime, da Morbidelli a Vignales a Quartararo a Valentino, uno vicinissimo all'altro. E però questa qui per Valentino è stata la prima volta, come dicevamo prima, quindi io mi aspetto che la prossima gara si possa fare un passettino in avanti e non certo accontentarsi del terzo posto, insomma, ecco. Che mi sembra già un bel pensiero, una bella idea. Più che altro ieri, Marino, parlavo con Giacomo Agostini proprio da questi microfoni, e insieme continuavamo a non capire le supercazzole della Yamaha, che dice, vabbè, l'ha detto lo stesso Valentino, ma ho chiesto di cambiare la moto, se la moto va bene per Quartararo e per Vinales magari non va bene per me, ma io non sono l'ultimo pirla, no? Io le supercazzole della Yamaha le conosco fin dal maggio 1964, quando Agostini restò senza benzina a Imola mentre stava vincendo il Gran Premio. E va bene così, e quando il direttore tecnico della Yamaha, che si chiamava Isohiro Mizoguchi, e forse Graziano che stava arrivando in quel momento lo ricorda, venne semplicemente retrocesso da direttore tecnico mega galattico della squadra a operaio al tornio. Poi in realtà se la cavava bene, per cui qualche anno dopo riuscì. Sì, la Yamaha viene evidentemente da qualche frustrazione. Credo che questa cosa di Valentino li abbia fatti riflettere un momento, anche se è umano che investano più dal punto di vista professionale per il futuro su un ragazzo che potrebbe essere figlio di Valentino, così come Valentino è figlio di Graziano, ammesso che lo sia, perché sia lui che Luca Marini sono andati benissimo entrambi, E mater sempre certa, pater nunqua, lo dico a lui che sa il latino. comunque, senti, ma questa storia della Yamaha, se, Graziano, tu come la leggi? Qual è la domanda? No, le lamentele di Valentino contro la Yamaha. La domanda è che non è detto che tu sia il padre di Valentino, perché va troppo bene in moto. Guarda, Valentino lo sapeva già e lo sa già da molto tempo che con la Yamaha il discorso tecnico è un po' difficile, perché loro credono in certi loro concetti, non ne hanno naturalmente tutti i torti, quindi essendo loro la Yamaha hanno il loro peso, no? Però si è creato un gruppo nel team di Valentino con il nuovo capo tecnico e con tutti i ragazzi che c'erano prima, che dà a Valentino la possibilità, come è successo questa volta, certi lavori di farli lo stesso, ecco, di farli accettare ai capi della Yamaha e quindi di ottenere poi i risultati che Valentino si merita, perché lui è decisamente capace di mettere a posto la moto, ecco. Sì. Senti, Graziano, io ti saluto, non so Marino se vuoi salutare anche tu. Io non solo lo saluto ma lo abbraccio, perché non dico lo sopporto da 43 anni, ma gli voglio bene da 43 anni e gliene vorrò anche per i prossimi 43. E quindi sono io che ti sopporto come tutti i piloti sopportano i giornalisti. Ciapala Bartoletti, ciapala. Grazie Graziano, un abbraccio. Buona giornata, grazie. Ciao, a tutti. Ciao Graziano. Graziano, ciao. Senti, io ho il traffico, ma poi c'è un altro tuo amico che non è Turrini. Penso un sì, po'. Ma non voglio sapere come va sulla Pero Cormano, non mi interessa. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Penso che l'allenatore della Juventus sia un bersaglio continuo. Io negli ultimi anni ho sempre visto questo, quindi non è che c'è da farci particolarmente caso. Sai che se prendi questo ruolo, prendi questa responsabilità, sarai bersagliato dalle critiche per tutte le sconfitte, per tutti i pareggi, per tutte le vittorie 1-0. Non ci vedo niente di particolare. Poi io questa cosa non la soffro molto, sinceramente, per carattere. Ecco qui l'altro tuo amico, caro Marino, che domenica ha fatto festa. Io scommetto che lo hai sentito, adesso mi racconti che l'hai sentito e avete parlato di Caruso, di Viviani, di Bettiol, dei rapporti di Nibali e di altre cose così, no? Giusto? Esatto, come fai a saperlo? No, ma lo immaginavo, semplicemente lo immaginavo. Cioè, l'ho chiamato e ho detto complimenti, ma sì, ma la Juventus, vabbè, se lo scudetto, ma però parliamo di ragazzi, Caruso. L'8 agosto si corre a Milano-Sanremo. Senti, ma cosa ne pensa Sarri di Davide Cassani? Beh, io credo tutto il bene possibile, sinceramente, come ne penso io. E non dirmi che c'è Davide Cassani, per piacere, no. Se non parlo male, no. Subito. No, non c'è, figurati. No. No, come ti è venuta questa idea? Ma così, perché fai delle sorprese strane. Io voglio molto bene Maurizio Sarri, appunto, che il mio giudizio nei suoi confronti potrebbe anche non essere obiettivo, anche se ovviamente la soglia critica resta sempre vigile. Però io mi limito a fargli complimenti per quello che ha fatto quest'anno in una situazione certamente non facile. È un uomo, non un allenatore, che vince il suo primo scudetto a 61 anni, dopo aver vinto una Coppa Europea, se qualcuno lo vuole ricordare, in difficoltà oggettive non trascurabili. Mi sembra che quantomeno un applauso lo meriterebbe. Poi se volete parliamo di gioco, di motivazioni, di futuro e di quant'altro. Idem Davide Cassani. Davide Cassani è una persona che è stato un ottimo ciclista, un intelligente ciclista, che ha fatto poi un percorso alternativo non banale, che l'ha portato a coronare il suo sogno, ammesso che ce l'avesse quel sogno di diventare commissario tecnico della nazionale. Questo mi ha reso felice per tanti motivi. Boh, quasi glielo chiedo, ce l'avevi quel sogno, Davide? Sì, ce l'avevo. Ciao Marino, ciao. Ciao. Sì. ce l'avevo quel sogno, perché alla fine per me il mondiale è sempre stata la corsa, e quindi da corridore sognavo, anzi da ragazzino sognavo di partecipare ad un campionato del mondo, e da corridore sinceramente non ci pensavo neanche, perché era talmente lontano quell'obiettivo che ho detto ma come, io il commissario tecnico, ma quando mai? Poi strada facendo, anno dopo anno, ho cominciato a pensare. Senti, ma lui è nato commissario tecnico in realtà, e l'ha detto, cioè quando lui, soprattutto gli ultimi anni nel mondiale, infatti 8 o 9 che non mi ricordo, era il braccio armato di Alfredo Martini in campo, quando su strada, quando non c'erano le radioline. C'è da dire che adesso non si corre più solo un mondiale, perché praticamente la squadra azzurra è presente spalmata tutto l'arco della stagione. Forse questa è la vera grande rivoluzione che ha portato lui nel ciclismo italiano. Certo che tu di commissari tecnici ne conosci un bel po', Bartoletti. In vari settori. No, se essere commissario tecnico, Davide, vuol dire anche farsi sfrantumare i maroni quando non arriva la medaglia d'oro, la maglia iridata. Questo vale, è il destino e la croce di tutti gli allenatori, da te a Sarri. È assolutamente normale, perché quando si vince il merito è dei calciatori o dei corridori, quando si perde la colpa è del commissario tecnico o dell'allenatore, ma lo sai prima, e quindi, come ha detto Maurizio Sarri, ci fai comunque l'abitudine, quindi gli dai il peso giusto, no? Quindi secondo me l'importante è cercare di andare avanti con le proprie idee, credere nei propri ragazzi, fare questo lavoro nel modo più solare, più onesto possibile, convocando chi secondo te merita la maglia azzurra per cercare di ottenere un obiettivo. Io, sai, come ha detto Marino, adesso non è solamente un campionato del mondo. L'anno scorso, tra le altre cose, è stato un anno fantastico, l'anno scorso, non quest'anno, perché abbiamo vinto i giochi europei con Ballerini, i campionati europei con Lia Viviani, siamo andati alla Paralimpica, l'abbiamo vinta con Ulissi, siamo andati ai mondiali, siamo arrivati secondi con Matteo Trentin, abbiamo conquistato due medaglie di bronzo in una specialità che solitamente ci vede in difficoltà, come la cronometro, con due ragazzoni di 23 anni, quali Affini e Ganna, e tra le altre cose, tra gli juniores e gli under 23, abbiamo vinto due europei e due campionati del mondo. Vuol dire che comunque anche se non siamo più il ciclismo da battere, siamo sempre e comunque un punto di riferimento per tutti, che comunque ti hanno frantumato i maroni un po' di meno rispetto ad altri momenti. Ma sì, perché alla fine quando vedi, cioè chi conosce il ciclismo, quando vedi la nazionale correre in quella maniera, cosa puoi dire? Gli puoi solamente fare ai corridori gli applausi. Marino, certo che avere Viviani o Nibali o Cristiano Ronaldo aiuta. Sicuramente sì, guarda, il piccolo vantaggio che ha Davide, come dire, impreziosito dal fatto che lui ci lavora tutto l'anno su quella formazione che poi disputa il mondiale, ma anche l'europeo, anche le altre cose che ha elencato, è che i giocatori li può convocare lui, li può plasmare lui. Obiettivamente Sarri è arrivato a situazione piuttosto avanzata, sia di appagamento della squadra, sia anche di presenza di giocatori, molti dei quali, per carità, assolutamente campioni, però questa non è ancora la squadra che Sarri ha voluto, plasmato secondo anche le intenzioni morali che lui pretende dai giocatori. Poi ripeto, stiamo parlando di campioni e di campionissimi, però non so se avrebbe scelto alcuni dei giocatori che si è ritrovato, compreso anche quelli più importanti, sinceramente. Adesso io spero veramente che la sua prestazione di questa stagione la si possa misurare anche con altri obiettivi che è chiamato a raggiungere, dopodiché tireremo assolutamente le somme. Io sarò felice di fargli il regalo che gli ho promesso, in cambio di qualcosa di importante lo porterò a Pavana a conoscere il maestrone. però regalo non da poco. Senti, ma quali sono i suoi gusti ciclistici? Lui adora Nibali, lui e suo bambo Amerigo, che ha 90 anni, va ancora in bicicletta, e lui è disperato perché non sa se dirgli di smettere e morirebbe per questo, o continuare a mandarlo in squadra e in strada e corre il rischio di farsi male, però preferisce farlo divertire. Beh, sappi che Amerigo gira per strada con la maglia di Nibali. Ah sì, addirittura. Sì. Bisogna fare qualcosa, Davide. Ma sai, A 90 anni andare ancora in bicicletta con la maglia di Nibali, beh, un bel poster. Guarda, io Amerigo l'ultima volta l'ho visto nel mese di gennaio ad un incontro di ex professionisti a Prato, dove un nostro amico Enzo organizza sempre questo incontro, e c'era anche Americo, una brillantezza straordinaria, un personaggio veramente molto bello, perché alla fine sembra ancora un ragazzino, proprio sempre col sorriso tra le labbra, parla di ciclismo naturalmente perché è il suo sport e ha trasmesso questa passione anche al figlio, anche se poi ha preso un'altra strada. E quindi il potere quindi della bicicletta Marino la conosce benissimo, infatti basta guardarlo, guarda che forma è, il potere della bicicletta, che forma è. Io, guarda, disobbedisco a Davide che mi vorrebbe migliore su due ruote, però insomma cercherò di migliorare. Come sarà la stagione, ragazzi, per chiudere, come sarà la stagione che si sta per aprire? Piuttosto strana, guarda, piuttosto compressa, piuttosto assolata. Anna stranissima, però intanto siamo riusciti a ripartire proprio nel 2020 con le corse di gruppo, prima a Imola, poi a Faenza e a Sant'Ermete con la Junior e Under 23. Finalmente partono in Spagna con la Vuelta a Burgos, i professionisti, il 1 agosto in Toscana Strade Bianche, poi sì, strano vedere una Milano Sanremo l'8 agosto, la classica delle foglie morte, Lombardia il giorno di Ferragosto. Sì, sì, sì. È il campionato del mondo di primavera l'8 di agosto, certamente. Però lasciatemi dire, credo che anche Marino sia d'accordo, ci si allarga il cuore da morire, Marino. Beh, guarda, la vita passa anche attraverso la ripresa delle cose sportive. Io sono contento che tanti gufi nel calcio, anche se chiaramente abbiamo dovuto praticare dei compromessi, siano stati scoraggiati, quelli che dicevano quando verrà fuori il primo malato di Covid, quasi augurandoselo. Sì. Questo è uno scudetto vinto sul campo, qualcuno si offende come cosa di paglia quando dico scudetto vinto sul campo, ma semplicemente perché non si sono tirati i bussolotti, non sono stati scatenati gli algoritmi. Grazie Marino. Vediamo se ci sarà. Grazie per avermi fatto trovare tanti amici. Hai visto, così non hai sentito la mancanza di Turì, con il quale sarai... Chi? Ciao Davide. Ciao Marino Bartoletti, io ringrazio anche Davide Cassani naturalmente. Tutti convocati d'estate, non si ferma qui ma prosegue tra pochissimo, abbiamo altri appuntamenti, parleremo e lo faremo ogni giorno, annoderemo qualche filo di mercato, compreso quella immagine che vedrete su tutti i social del Duomo di Milano con l'ombra facilmente identificabile di Lionel Messi. È stata utilizzata da una televisione cinese di proprietà di Suning per pubblicizzare Inter Napoli di domani, però un sacco di tweet. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Io davvero penso che siamo questo, in questo mese. Siamo una squadra che voleva sempre vincere, e abbiamo una grande mentalità, grande passione, grazie a Zlatan che aiuta noi, e veramente anche Zlatan è un giocatore importante per noi. Questo che avete sentito è a Calhanoglu, uno dei nodi contrattuali che il Milan deve sciogliere. Tra l'altro oggi si è diffusa la notizia, la voce che insomma Mino Raiola sia in discesa su casa Milan proprio per risolvere alcuni di questi nodi. Uno si chiama Zlatan Ibrahimovic e l'altro si chiama Donnarumma. Entrambi devono rinnovare. È chiaro che si finirà per parlare di quattrini, che magari il Milan proverà a giocare un po' al ribasso o comunque alla rimodulazione di accordi parecchio consistenti, però io penso che li rivedremo a Milano con quella maglia. Tra l'altro diceva prima Pierluigi Pardo che c'è stata sempre un indizio, che non certo una prova, è stata presentata la nuova maglia del Milan e uno dei testimonian è Ibrahimovic. Chissà che un giorno Matteo Marani non debba raccontare invece su Sky una delle sue storie dedicate al giorno in cui Messi viene all'Inter per sfidare CR7. Ciao Matteo. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno Carlo, bentrovati, ciao. Chissà che non possa arrivare quel giorno. È chiaro che anche qui non siamo neanche agli indizi, siamo alle suggestioni della diapositiva di Messi proiettata sul Duomo per presentare una partita di un canale cinese, eccetera, eccetera. Però è inutile dire che tanto di questi tempi sognare è sempre gratis, eppure bello, Matteo. E secondo me c'è di mezzo ovviamente molto le questioni tecniche di campo e di gioco, per cui insomma, su questa cosa qui io vado un po' dietro a quello che ha detto Marotta. Per il momento è fantamercato, per il momento. Poi vedremo se i scenari cambieranno. Io credo che sia veramente difficile pensare a Messi all'inizio del campionato italiano, anche perché lui ha un rapporto col Barcellona che non è quello di Cristiano Ronaldo col Real Madrid. Cristiano Ronaldo a Madrid è passato, dopo ovviamente Manchester, dopo il Portogallo. Messi deve tutta la sua carriera, un bel pezzo anche proprio della vita, della sua crescita, di tutto quello che ha fatto il Barcellona per lui. Credo ci sia un rapporto, un legame di gratitudine enorme. Sì, non ce l'ha con il presidente attuale, che però è in uscita, e su quello si punta, perché Messi sta facendo chiaramente in questo periodo anche campagna elettorale contro Bartomeu. Invece Matteo, sempre a proposito di storie che tu racconti, credo che non sia finita quella di Ibrahimovic con il Milan, e io mi auguro che non sia finita per il bene del Milan, perché l'ho detto un sacco di volte, forse troppo in questo periodo, è stato il vero reagente chimico che ha permesso a questa squadra di cambiare pelle in questo disgraziato 2020. Sì, sono d'accordo, cioè l'uomo che ha cambiato la storia del Milan in questa annata è certamente Zlatan Ibrahimovic. Lo dicono, lo attestano i numeri in maniera chiara, eclatante. Cioè il Milan ha viaggiato con tante difficoltà fino a Natale, la media punti era di un punto a partita, devo dire, sia per quello che riguarda Giampaolo, che poi è stato molto criticato, che per Pioli. Poi è arrivato Ibrahimovic e ha cambiato tutto. Il Milan è passato addirittura a fare 2 punti a partita, e poi dopo il lockdown è la squadra più in forma, più forte, insieme all'Atalanta, quella che ha fatto meglio. Non c'è dubbio che lui abbia cambiato tutto. Ha cambiato molto dal punto di vista mentale, perché ha portato una forza, uno spirito che quello spogliatoio provato non aveva, quindi ha ribaltato la situazione. Ma io dico anche in campo, certo, non è più l'Ibrahimovic di 10 anni fa, in cui era, se non il miglior giocatore del mondo, sul podio dei migliori del mondo, però è un giocatore che cambia la squadra anche in campo. Io guardavo la partita con l'Atalanta, ogni pallone che arriva lo mette giù, lo sistema, lo pulisce, lo scarica, cioè è troppo utile. Io penso, me lo sono chiesto e continuo a chiedere se il Milan può fare meno di Ibrahimovic, cioè, la mia risposta oggi no, io credo che non possa rinunciare in questo momento a Ibrahimovic, nel suo processo di crescita, anche perché tutti gli altri sono cresciuti dietro a lui, grazie a lui, esatto. E con la sua protezione, cioè, esatto. È stato l'uomo che ha fatto crescere. Esatto, probabilmente è un pugno di giocatori di buona qualità, magari senza tanta personalità, forse anche perché molto giovani, però io credo che abbia un ruolo assolutamente unico nel calcio di adesso, che è quello del giocatore vice allenatore, perché si vede la sua importanza perfino quando sta in panchina, quando Pioli lo leva, lui si incazza, poi si siede lì e gli altri vedi che pendono dalle sue labbra, quindi per un sacco di sottili motivi il Milan in questo momento non, questa squadra, questo gruppo che hanno deciso di non cambiare per diversi motivi, credo, e non solo per i risultati ottenuti sul campo, non può prescindere da quel ruolo lì. Senti, un'altra storia invece molto bella e che credo ti appassiona, quella di Mihajlovic, cittadino onorario della tua Bologna. Questo è qualcosa di, anche in questo caso, una storia unica, un po' diversa e molto sui generis. Sì, insomma, Mihajlovic ovviamente è entrato nella città e la città è entrata dentro di lui, perché questa città comunque sarà la città che l'ha curato, la città che gli è stato vicino nel momento più drammatico della sua vita, che gli ha prestato cure, che gli ha prestato affetto, che gli ha prestato attenzione. Tutta la città onestamente si è stretta attorno a Sinisa nei giorni più difficile. Penso che cosa fu quel gesto, secondo me straordinario, credo senza precedenti nel calcio mondiale, di una squadra, di un pullman che dopo una vittoria va sotto la corsia d'ospedale del proprio allenatore, lui esce dalla finestra e loro gli fanno i cori e lui dice domani vi scrivo tutti. È una storia molto molto bella, diciamo anche molto drammatica, perché comunque si è dovuto affrontare una malattia insidiosissima. però è una storia molto bella e Mihajlovic meritatamente, insomma, entra, diciamo, anche da un punto simbolico nella città dove di fatto c'era già da tantissimi punti di vista, abbiamo prolungato il contratto da poco, insomma, c'è un progetto anche di crescita della società e della squadra legata molto a Mihajlovic. Sì, certamente. Riprendo un discorso che ho fatto prima perché sono curioso anche in questo caso di sentire la tua opinione, sempre a proposito di storie. Dicevo che secondo me, conoscendo un po' quelle persone e personalità alla Juventus, non sarà banale il prossimo campionato, perché io credo che nei pensieri di Andrea Agnelli e del suo gruppo di lavoro quella stella personale, quel decimo scudetto abbia un valore simbolico fortissimo. Tu come la pensi? Sì, io penso che abbia un grandissimo valore, perché comunque il poter affermare di aver vinto una stella consecutiva è una cosa che resterà per sempre, insomma, resterà nei secoli, non resterà neanche nei decenni, quindi è chiaro che questo diventa un obiettivo. Sono stati 10 anni della Juve, adesso 9, insomma, in attesa ovviamente del prossimo anno, ma insomma, questo decennio è stato il decennio della Juventus. Guardavo e ricostruivo un po' che cosa è successo in questo decennio, c'è stato prima il Milan di Allegri, non ce l'ha fatta perché vinse Conte, poi c'è stata la Roma di Spalletti, ma non ce l'ha fatta. Quello che è andato più vicino probabilmente è stato il Napoli di Sarri, sicuramente. Poi c'è stata la bellissima Atalanta e oggi l'Inter di Conte, ma alla fine vince la Juve. E quando vinci per 9 anni significa che hai una propensione alla vittoria, all'organizzazione, cioè una determinazione che poi fa la differenza. Quello che dice Conte non sono parole vuote, cioè è veramente il modello. Io guardavo, Carlo, una cosa che mi ha un pochino anche impressionato e colpito: al nono scudetto, domenica sera, in tribuna la dirigenza insieme a Chiellini, che è di fatto un dirigente ormai, è molto calciatore dirigente, tu parlavi di calciatore allenatore, Chiellini sappiamo, insomma, che per profilo, preparazione anche sua culturale, certo. Guarda con interesse anche a un domani da dirigente. Dicevo, vedere in quell'abbraccio, in quella stretta, in quella feroce abbracciata, io penso che ci fosse molto della spiegazione di che cos'è la Juventus. La Juve è entrata in questa fase, diciamo, post lockdown, con un punto di vantaggio sulla Lazio, lo scontro diretto perso, va ricordato, e oggi si trova a 7 sulla seconda. Quindi anche le enormi critiche che sono piovute addosso, sicuramente il gioco non è stato brillante, detto tutto questo, ha aumentato nettamente il divario sulle altre. Quindi se la Juve non ha fatto bene, viene da dire che gli altri hanno fatto allora peggio. Sì, hanno fatto peso. Infatti, secondo me la Juventus si è limitata a non perdere dopo il lockdown, lo dicevo prima, sono le altre che si sono totalmente sciolte. D'altra parte, quanto tu dici è sacrosanto. Guarda, quando è venuto qui a trovarmi Andrea Agnelli, abbiamo fatto un programma insieme, a domanda, ma quanto è importante la vittoria per la Juventus? Una cosa del genere, lui ha risposto: la vittoria non è importante, è l'unica cosa che conta, poi come ci arrivi possiamo anche parlarne. Senti, dato che ho Mario Boni in linea, che già saluto, ciao Mario. Ciao Carletto, ciao, buongiorno. Ciao. Allora, Matteo Marani, spiega a Mario Boni cosa serve all'Inter per prepararsi all'attacco al potere l'anno prossimo. Intanto saluto Mario, abbiamo avuto occasione di parlare anche ovviamente della sua Inter. Cosa serve? Allora, intanto serve consolidare. Nel calcio non si inventa nulla, non si crea nulla, cioè i risultati arrivano per progressione, per un processo di crescita. L'Inter secondo me lo sta facendo, ci sono dei parametri, degli indici molto interessanti, molto confortanti. L'Inter la migliore difesa, la migliore squadra in trasferta, quella che fa più gol da palla inattiva, avanti nei primi tempi, cioè ha tutta una serie di elementi, di fattori che mi fanno vedere chiaramente che c'è la crescita della squadra, peraltro 10 punti più sull'anno scorso. È un processo che è iniziato già qualche anno fa, va riconosciuto il lavoro che ha fatto anche Luciano Spalletti, che insomma è stato molto importante. C'è un processo costante di crescita, c'è una società che ha mezzi e motivazione e voglia di vincere, manca l'ultimo passo, secondo me l'ultimo passo è la differenza che deve fare Antonio Conte, cioè la straordinarietà di Antonio Conte non si deve produrre per 5-6 mesi, ma gli tocca farlo per 9 mesi, perché lui è stato veramente la grande differenza nella prima parte della stagione, l'ho detto tante volte. Posso fare una domanda a Matteo? Posso fare una domanda a Matteo, che insomma l'esperienza, la conoscenza. Ecco, quello che manca a mio avviso è il centrocampo dell'Inter, perché non capisco, cioè, chi si intende di calcio, no? Prende un giocatore Eriksen, uno si domanda, Eriksen è un fenomeno, bravo, però nell'Inter non dimostra nulla. Gagliardini gioca titolare, Barella è da Inter. Ecco, questo è il grande punto interrogativo, no? Io da appassionato di calcio, grande tifoso, conosco la pallacanestro, però vi domando, quando vai a prendere un giocatore, siamo sicuri che è da Inter? Provo a risponderti, Mario. Allora, sicuramente l'Inter quest'anno è mancato molto, anche Sensi, ci tengo, ripeto, non l'hai nominato, ma semplicemente credo perché da molte partite non gioca, ne ha fatte solo 12, per me rimane probabilmente il migliore addirittura al centrocampo dell'Inter insieme a Brozovic per capacità tecnica e di costruzione di gioco. Io penso che l'Inter, al di là del centrocampo, dove in effetti è migliorabile, sicuramente in quel punto lì è migliorabile, bisogna vedere anche ovviamente se Barella garantirà la prossima stagione, tutta la stagione intera, ci sono stati molti problemi anche fisici. Io però mi riferivo a un'altra cosa che era un pochino più generale, guardavo diciamo, l'andamento dell'Inter in questa stagione. L'Inter ha pareggiato quest'anno 6 volte in casa, 4 in trasferta, cioè ha pareggiato il doppio di volte della Juventus e ha pareggiato anche partite che secondo me poteva vincere. Ha pareggiato Cagliari, Fiorentina, Lecce, cioè non è che stiamo parlando solo delle grandi squadre. Quindi io credo che lì, in quella, l'ha detto benissimo Conte, in quel killer instinct, cioè in quella capacità di vincere le partite, far sì che gli episodi che quest'anno sono sembrati tutti sfortunati diventino fortunati, io credo che lì ci sia una chiave nella stagione lì. Poi la squadra va certamente migliorata e sono d'accordo con te che va migliorata, adesso dei mattini, insomma, qualcosa già l'Inter si è mossa per migliorare, ma il centrocampo può crescere, poi dovremo capire se giocherà col trequartista o no. Io spero Tonali, Matteo, Tonali è da Inter, Tonali? Ma guarda, Tonali è un giocatore molto interessante, però bisogna capire come vuole giocare l'Inter, cioè provo a spiegarmi meglio. Se gioca col trequartista, paradossalmente Tonali può essere il suo più importante, perché giocheresti con due in mezzo che devono portare grandi quantità. Se giochi con centrocampo a 5, ti serve di più il regista, però a quel punto Eriksen dove lo metti? Quindi io penso che Tonali come profilo sì, è un giocatore interessante, un giocatore di grande prospettiva, non ci sono dubbi. A me sorprende, Matteo, poi ti saluto, mi sorprende abbastanza la quantità di soldi che l'Inter comunque ha sborsato per confermare Sanchez, perché è certamente il finale di stagione uno dei migliori, però insomma, aveva un contratto con lo United, lo ripeto, da 15 l'anno, 15 milioni l'anno per altri 2 anni, sono 30 milioni. È chiaro che avranno trovato l'accordo sul prezzo, però sono comunque tanti soldi che vengono investiti su questo giocatore. Ma lì è evidente, hai detto bene, Carlo, è chiaro che se si paga molto di ingaggio è perché poi si spende meno dall'altra parte. Insomma, è una cosa che fanno anche molti club, quelli di pagare di più gli stipendi per pagare poi meno il cartellino, addirittura in alcuni casi prendere il giocatore a parametro zero. A me Sanchez piace tanto, insomma, lo considero un grande attaccante, un grande giocatore, lo considero da sempre, dai tempi di Udine, Barcellona, poi l'Inghilterra, insomma, a parte l'ultima fase, l'ultima stagione, perché penso anche in Sud, insomma, in Sud America, quello che ha fatto, la Coppa America, è un giocatore molto forte. Io credo che l'Inter debba guardare veramente all'eccellenza, cioè abbia bisogno, traduco in breve, abbia bisogno di 2-3 giocatori di livello assoluto che la trasformino, che la facciano crescere ancora. Ecco, con 2-3 giocatori di grandissimo livello, io penso e continuo a pensare che non sia così lontano. E poi sicuramente un'altra cosa, poi vi lascio con questa, si sancisce, oggi c'è una partita molto simbolica che è Inter-Napoli, si sancisce secondo me di fatto l'acquisito ruolo di anti-Juventus dell'Inter, cioè noi siamo partiti in questa stagione in cui ci fanno Inter-Napoli, sono le due squadre a ridosso della Juventus. Ecco, usciamo da questa stagione in cui tutti, credo, a parte l'Atalanta, l'Atalanta è un discorso a sé, diventa anche difficile come catalogare l'Atalanta, però mi pare che l'Inter esca con il ruolo inevitabile di anti-Juventus la prossima stagione, e peraltro, questo lo dico Mario, ovviamente l'occhio gliel'avrà già buttato, torna sul podio, insomma, in attesa ovviamente bisogna confermare, non bisogna, c'è ancora l'asse dietro e tutto, però potrebbe tornare sul podio dopo 9 anni, insomma, l'ultima volta fu nel 2010-2011, l'anno post-triplete. Esatto. Quindi questo sarebbe secondo me già un ottimo traguardo per l'Inter. Sì, grazie Matteo. Ciao, grazie a te Carlo. Ciao direttore, a tutti. Non so se è sufficiente Mario. questa medaglia d'argento, di bronzo, queste prospettive, questa fiducia. In Toscana si dice fare la corsa del puppone, quando non vinci arrivi secondo, terzo, quindi noi interisti siamo abituati a fare la corsa del puppone, poi arrivare, oddio, magari corsa del puppone, arriviamo sempre molto lontani, quest'anno è un po' meglio, però c'è, ha detto bene Matteo Marani, bisogna prendere 2-3 giocatori di livello assoluto. Sì, quindi ha ragione Conte, secondo te il secondo è il primo dei perdenti? Sì, ah. Sì, proprio il peggio in assoluto nel secondo, meglio quarto, meglio quinto. Non avevo dubbi che la pensassi così, mio caro. Beh, c'è l'Europa League, c'è l'Europa League e quella farà tutta la differenza del mondo. Esatto, quello è importante. Senti Mario, tiro da 3 punti allo scadere, Cremona farà la prossima Serie A, venerdì scade il termine per l'iscrizione dei campionati. Beh, io sono molto contento perché Cremona ha fatto la storia anche recente della nostra pallacanestro. Era brutto, sparisse così, mi sembra un bel tiro da 3 punti. Molto buono, complimenti, è stata una scelta difficile all'inizio quando Vanoli disse che non ce la faceva, però è prendere coscienza delle proprie possibilità come molte squadre hanno fatto, sia in Lega 2 che in Serie B, quindi complimenti a Vanoli per come ha messo pressione all'ambiente di Cremona e poi per la bravura a trovare qualcuno che potesse sostenere la stagione, quindi viva Cremona che c'è in Serie A. Senti, cosa ti interesserebbe sapere dalla bolla di Orlando dove sta per iniziare l'NBA? Sinceramente niente, perché non sono appassionato di NBA, ci sono più che altro interessato come sarà la prossima stagione di Eurolega. L'NBA, sì, le finali sono più interessanti, però ecco la bolla, questo casino, ma le entrate, giocate, insomma, voglio dire. Entrate, giocate, c'è Simone Sandri che è collegato con noi, che è da lì, dalla bubble, è entrato, non giocherà, però ci documenterà quello che succede. Intanto c'è da mettere le guardie alle porte perché scappano per andare agli strip club. Questo può interessare. Ciao Simone. Ciao, buongiorno, un ottimo spot di Mario per questo ingresso dell'NBA. Non sapevo tu fossi in collegamento. Ma io sono bastardo, l'ho detto apposta. Lo so, bastardo vero, Carlo. No, hai detto bene. Le guardie, a dire la verità, è abbastanza complesso il discorso, perché c'è stato una lunga negoziazione tra l'NBA e l'associazione giocatori, ed è esattamente quello che non volevano l'associazione giocatori, non volevano per fare delle guardie armate, tra virgolette, non volevo delle vere guardie che dicessero ai giocatori che non possono uscire. Loro hanno le guardie, sono delle security guard di Disney, praticamente dei normali agenti di sicurezza che se un giocatore vuole uscire dalla bubble gli dicono, ovviamente non gli possono dire nulla, è proprio uno dei punti chiavi delle negoziazioni. Certo, poi ci sono le ripercussioni, nel caso di Mo Williams è diverso, perché Mo Williams aveva il permesso dell'NBA per recarsi al funerale di un amico di famiglia, e il problema è che è stato fotografato in questo strip club, già l'idea che si faccia fotografare in un contesto del genere, in un mondo dove se pubblichi una foto su Instagram per un minuto e poi la cancelli la vedono tutti, quindi già questa idea qua fa capire quanto buona l'idea sia stata. E poi ovviamente c'è anche il discorso che è contrario a tutte le regole, a tutte le norme di protocollo dell'NBA, è ritornato nella bubble, si è sentito un cazziatone da parte di Doc Rivers, probabilmente anche dei suoi compagni, e sarà costretto a fare una quarantena di 10 giorni, per cui perderà $150,000 di stipendio, quindi è costato parecchio questa visita allo strip club. È costato un pochino, 2 soldi. Ciao Mario, grazie. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao Marione. Simone, tu stai con me, traffico, e poi approfondiamo il discorso su quella bolla. Sono molto curioso di sapere da te qualche immagine sonora di quella bolla, ma anche su altre storie che riguardano l'America in questi giorni. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Nothing is normal in 2020. We all missed the game. Here comes LBJ! Now here we go. I can bring happiness to a lot of homes with the way I play the game, and I will continue to keep my foot on the gas on creating real change for us as people of color in America. life throws you curveballs sometimes, and what is the same is what we're here to do. Stay focused and lock in. Voi non lo vedete, ma questo è LeBron James, che insomma, è testimonial di questa ripartenza dell'NBA. E lasciatemi dire a Simone Sandri che non potevano onestamente scegliere testimonial migliore, non perché è il più forte di tutti, ma perché è in un contesto americano, in uno sport americano che si muove con la difficoltà di militari nel Vietnam, tra mille problemi, è uno che ha tenuto un'immagine estremamente positiva, secondo me, LeBron James. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo, è assolutamente il poster boy di questa bubble, anche perché è uno dei giocatori che ha spinto di più per far accettare anche le limitazioni che questa bubble imponevano. Sembrano a noi, magari per la nostra mentalità, sembrano una limitazione normale, perché ci sembra quasi un ritiro normale di una nazionale, e per gli americani è qualcosa di incredibile avere questo tipo di limitazioni, dover stare in un posto dove da qua non si può uscire, non avere i propri familiari, non avere le mogli o le proprie partner, e per questo potenzialmente ci sono dei problemi potenziali, soprattutto nelle settimane a venire. E LeBron è uno di quelli che, a prescindere dal discorso di giustizia sociale, nel quale è sempre stato in prima linea, è uno di quelli che invece ha cercato di far capire a tutti che questa era la cosa giusta per tutti. E anche, siamo onesti, è anche un discorso un po', del certo punto di virgolette, egoistico, perché LeBron è in una delle due, tre o quattro squadre che hanno una realistica possibilità di vincere il titolo, per cui è un po' più facile essere motivato a rimanere nella bolla magari per tre mesi se hai la possibilità di vincere il titolo. È più difficile se sei magari una squadra che sei quasi sicuro di uscire al primo turno di playoff. Senti, abbiamo tante immagini di quello che succede dentro lì, c'è chi va a pesca, chi gioca a ping pong, chi gioca con i videogiochi, insomma, ci arrivano tutte queste immagini, però credo che si comporti, pur essendo in un posto meraviglioso con tutti i comfort, quello che vuoi, uno stress non da poco. Tu sei appena arrivato, però credo che rimanere lì dentro comunque fino a metà ottobre sia qualcosa di non semplicissimo. No, assolutamente, io peraltro non sono ancora entrato, devo fare il tampone tra un'ora e mezza, per cui non sono ancora fisicamente entrato. Anche la bubble dei giornalisti poi è diversa, ci sono meno limitazioni nei confronti della bubble dei giocatori, e nello stesso modo noi giornalisti non possiamo avere nessun contatto con i giocatori, non possiamo andare in nessun posto dove i giocatori possono entrare, per cui ci sono, diciamo, bolle diverse, è molto più restrittiva quello dei giocatori. Sono assolutamente d'accordo, e per questo sembra un paradosso, ma c'è un vantaggio innegabile per quanto riguarda i giocatori internazionali, soprattutto i giocatori europei, ma i giocatori internazionali in genere, giocatori abituati a vivere in un contesto del genere, perché adesso nelle prime settimane è abbastanza semplice, ci si è trovato anche qualcuno, ha trovato un escamotage per uscire per magari due o tre giorni per poi rientrare e non perdere partite. Da adesso in poi non si può più sgarrare, chi esce perde partite, perde soldi, perde magari la considerazione anche dei compagni, per cui adesso si vedrà veramente quanto è complicato non uscire e quanto duro. Gioco durissimo. Assolutamente, assolutamente. Tu ce lo racconterai, ci racconterai questa stranissima esperienza, non solo americana, ma dello sport. Grazie a Simone Sandri. Ovviamente. Grazie a voi. Ciao Simone, a prestissimo. Edoardo Lavezzari, Pietro Lacorte, Gianmarco Ferronato, ci sentiamo domani alle 14. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.